Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Frey e Alf. Ben ritrovati e ben ritrovati con Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio che anche in questa puntata vi porta alla riscoperta di questo importante anniversario di quest'anno, che è quello per l'appunto del 1968. 50 anni dal 1968. Come sapete, a noi gli anniversari, soprattutto se un po' rossi, diciamo, ci piacciono molto, e per cui ci dedichiamo anche un'altra puntata. È la nostra terza puntata dedicata al 68. Le altre due le potete andare a recuperare sul nostro sito, non mi stancherò mai di ripeterlo, www.radiovallun.info, e sono delle puntate, e ancora di più la puntata che ci aspetta quest'oggi, delle puntate che ci permettono di iniziare a mettere qualche riflessione, a mettere anche a dare il nostro piccolo contributo a quella che è un'interpretazione di un anniversario. Cioè, per carità, ci piacciono gli anniversari rossi, che su questo non ci piove, ma da storici e da storiche ci piace anche analizzarli, questi anniversari. Il 68, per quanto possa essere ormai dato per scontato, fra virgolette, è comunque un anniversario che abbiamo scoperto soprattutto con la nostra puntata dedicata alla rassegna stampa sugli articoli dedicati all'anniversario, usciti fra la fine del 2017 e quest'anno. È uno di quegli eventi che nella memoria pubblica ancora non hanno trovato un posto ben preciso, che lasciano fanno aprire delle discussioni il più delle volte piuttosto sterili, ma allo stesso tempo fanno venire fuori anche dei discorsi interessanti. Cioè, una delle cose più belle, secondo me, che è venuta fuori da questo anniversario è stata la capacità, e qui ci colleghiamo con quello di cui parleremo in questa puntata, la possibilità di mettersi in collegamento con la dimensione transnazionale. Più difficile a dirlo che a capire cos'è. Ovvero sia, il 68 è stato un movimento che ha coinvolto diversi attori, diversi spazi all'interno di tutto il pianeta Terra, mi verrebbe da dire, in una maniera abbastanza conseguenziale, in una maniera quasi contemporanea. Comunque è stata una dimensione molto larga, e alcuni di questi attori, alcuni di questi movimenti hanno attraversato per l'appunto le barriere, hanno attraversato i confini. Una cosa di cui molto spesso non si pensa, ma che varrebbe la pena di approfondire. In particolare, nella nostra rassegna stampa avevamo puntato l'attenzione sul discorso sull'antiimperialismo, il terzo mondismo, fenomeni che hanno per l'appunto, per la loro natura stessa, attraversato i confini. Nella puntata di oggi, Alf, si parla di dimensione transnazionale? Esattamente, entriamo all'interno della dimensione transnazionale grazie al contributo di Giulia Sbaffi, una giovane ricercatrice, amica, compagna della redazione web di Storia in Movimento Zapruder, e che in questo momento si trova e si collega con noi dall'altra parte dell'oceano, dagli Stati Uniti, perché sta facendo il suo dottorato alla New York University. Ed è proprio grazie a questo suo sguardo, questa sua collocazione, che ci porterà un contributo sulle memorie incrociate, gli sguardi incrociati sul 68, appunto come stavi dicendo tu prima, che riesce ad essere un evento, un processo transnazionale, e lo facciamo proprio a partire da questi nostri due punti di vista, diciamo così, geografici. Bene, allora, prima di entrare nell'intervista, ci ascoltiamo un po' di canzoni. Il focus che abbiamo scelto per questa puntata è quello di ragionare sulla memoria del 68, cioè come viene ricordato. È la tematica di oggi, ma è anche un aspetto da approfondire, perché diverse canzoni hanno analizzato il 68 in questa maniera. Sentirete degli ascolti per questo motivo che saranno piuttosto ondivaghi, si passerà da un genere all'altro. Iniziamo in maniera molto soft con una delle voci del 68, che è stata quella di Paolo Pietrangeli. Non citiamo i grandi classici di Paolo Pietrangeli, Contessa o Via discutendo, ma andiamo a prendere una canzone del 1996, il minimo e il massimo, una canzone che compare in questo disco, un disco prodotto dalla Manifesto Music nel 1996, che si intitola Un animale per compagno. La canzone che era per l'appunto il minimo del massimo, ci ho messo un po' a trovarla su YouTube, ma oggi ce l'ho fatta, per cui non potevo non mandarvela in onda. Buon ascolto, e poi diamo spazio a Giulia Sbaffi per la nostra chiacchierata. Thank you. massimo del minimo, è il sogno accarezzato, che è il massimo del massimo, l'abbiamo ripudiato. Il minimo del massimo, lui c'ha il baffo tagliente, il minimo del minimo ci assorbe lentamente. C'erano tre principi, tutti e tre sovversivi, liberi per esistere, per essere più vivi, liberi tra fratelli in un mondo di uguali, sembrano paradossi originali. T'avessero mai detto la tua legge è il mercato, avrai per leader massimo un banchiere, un magistrato, al peggio non c'è fine, magari un poliziotto, l'hanno scoperto adesso, lo Stato era corrotto. Lo dissero, mi pare, i neri dello Zambia, lo Stato che è borghese si accetta e non si cambia. Forse ho sbagliato il verbo, non era proprio accetta, però la rima calza, è perfetta. Frusta di penitente d'ogni razza e colore, frustati con l'ulivo e intona bianco fiore, prodi col petto in fuori, prodi anche sul calvario, prodi sarebbe sì un bell'avversario. Il mondo telematico è il mondo dei potenti, dove conta sorridere con 120 denti, che della gente vera se ne sbatte i coglioni, mi consenta, somiglia a Berlusconi. Fardo ogni erba un fascio è un errore banale, dire che un fascio è un fascio è un dovere morale, si cambia, si truccano, si stirano le brache, loro sono democratici ed io sono mandrache. Ciao Giulia, allora oggi volevamo capire innanzitutto perché il 68 è uno di quegli anni, processo, evento che ci costringe un po' ad uscire fuori dai confini nazionali. Perché secondo te? Ma il 68, se pensiamo al 68 come momento, cioè come stagione, e lo consideriamo dall'inizio della primavera fino all'autunno, e quindi consideriamo almeno nel caso italiano soltanto questo periodo in una prospettiva più ampia di tutto quello che copre il decennio, che in parte è anche una delle letture del 68 nel contesto italiano, vediamo un movimento fatto da una generazione tendenzialmente giovane tra l'università e la fine del liceo, che si muove in tutto il mondo, dall'est, quindi la Jugoslavia, quindi in parte anche la Polonia, e attraversa poi tutto l'Europa continentale, per certi aspetti tocca anche alcune realtà come l'Algeria, in parte anche l'Eritrea, una cosa di cui non si parla mai abbastanza, alla ricezione anche nell'ex colonia del movimento sessantottino italiano, e poi ovviamente si sposta negli Stati Uniti e si crea poi da lì anche una congiunzione con tutto il movimento in Latin America, quindi Cuba, e tendenzialmente Cuba, ma non soltanto quello, c'è movimenti anche in Argentina, in moltissimi Porto Rico, moltissime altre realtà, ecco. Perché si crea? Perché è importante ricordarlo, per una serie di tensioni che sono specifiche, legate alle rivendicazioni specifiche di ciascun gruppo studentesco, che sono quindi prevalentemente legate alle questioni universitarie, e poi ad un contesto politico sociale globale che è fortemente condizionato dalla guerra in Vietnam, da decolonizzazione sia in Latin America che in Africa, e quindi una spinta in qualche modo da parte di questa generazione a cambiare tutto, a mettere in discussione tutto il sistema. Ecco, esatto, ma è molto interessante proprio questa questo allargamento del movimento, come tu hai detto, e queste comunicazioni che ci sono fra contesti anche molto differenti. Appunto, hai nominato i paesi dell'est, il socialismo reale, hai nominato quello che veniva chiamato il terzo mondo, i non allineati, eccetera. Ma come avvenivano queste connessioni? Che tipo di... era effettivamente una comunicazione come possiamo un po' immaginarcela noi oggi, o seguiva canali che sono diversi? Sì, poi scusa se posso aggiungere una cosa, questa era anche una delle questioni secondo me molto interessanti che venivano sollevate nell'articolo che avevamo letto nella nostra rassegna stampa sull'anniversario del 68, l'articolo di Pedro de Monanville, che parlava anche dei movimenti di questi studenti a livello internazionale. No, gli studenti, innanzitutto c'era un movimento di studenti che si spostavano, soprattutto perché guardiamo al caso dell'Italia, le mete erano ovviamente Parigi, le mete erano anche Londra, e poi ovviamente c'erano le letture, c'era il cinema, c'è un cinema come il cinema di Chris Mark, o c'è il cinema della Soyora de los Hornos, che porta, come dire, in contatto il cinema inteso come documentario, ovviamente, queste nuove forme anche, no, di divulgazione delle immagini, divulgazione di alcuni contenuti che viaggiano attraverso mondi diversi e che quindi, come dire, aprono discussioni anche di realtà geograficamente lontane. Poi ci sono le letture, ci sono ovviamente, c'è la stampa, uno dei motivi, e questo insomma buona parte anche degli studiosi che si occupano di 68 scrivono, è che ovviamente è stato anche moltissimo, la stampa ha avuto un ruolo importante nel portare alcune questioni costantemente sulle prime pagine e quindi produrre anche una discussione in canali più mainstream di quello che accadeva. Gli studenti si spostavano, gli studenti comunicavano, ma non soltanto gli studenti, anche i militanti. Se guardiamo semplicemente ad alcuni dei leader delle Black Panther, che poi si rifugiano in Algeria e creano un'unica ambasciata cosiddetta, l'unico avamposto statunitense in Algeria, proprio rappresentato da loro, e non soltanto questo, ma quello che scriveva Che Guevara, quello che accadeva in Latin America, in Bolivia, veniva costantemente poi discusso all'interno di alcuni gruppi. In Italia, soprattutto a Roma, venivano fatti all'università, ma anche al liceo, controcorsi, e tutte le mattine si leggeva, come dire, la stampa estera e si parlava di quello che accadeva, e si studiavano le cose che venivano scritte, si capivano, si cercava di riattualizzare all'interno del proprio contesto quello che accadeva all'interno dei movimenti. Quindi sì, bisogna pensare a questa, come dire, connessione, che è una connessione di persone, che è una connessione anche di produzione culturale, che era molto forte in quegli anni. Secondo te, proprio quanto queste attualizzazioni, come che esito danno, che risultato danno a tuo avviso, con gli occhi di una storica che studia adesso queste connessioni? Quanto puoi ricostruire di forzature, quanto invece queste cose a volte viaggiavano proprio in parallelo su binari diversi, su contesti diversi? Qual è la tua interpretazione? Ma credo che nell'eruzione magmatica di, come dire, spunti di discussione e anche di nuovi spunti di ricerca, di riflessione, di considerazione, si siano create un momento di tensione culturale, politica, di riflessione politica molto forte. Ora, quello che poi si è perso e quello che è rimasto, questo è un altro piano. Credo che il contatto soprattutto tra i movimenti europei e quello che avveniva negli Stati Uniti, soprattutto in connessione con il movimento delle Black Panther, sia stato fino adesso poco, come dire, discusso e poco considerato, in termini anche di una riflessione sul concetto di razza e non soltanto sul concetto di classe, che se guardiamo, come dire, oggi con gli occhi del presente richiede secondo me una maggiore riflessione. E gli immigrati in Francia hanno avuto un ruolo fondamentale nel 68 ed è fino adesso stato, come dire, poco discusso, poco visto. Noi siamo abituati a una riflessione sul 68, soprattutto in questi giorni, in questi mesi in cui il 68 è tornato con forza dirompente sulle prime pagine, a una come dire, un ripresentarsi delle stesse categorie, no? Quindi con un ruolo centrale da parte dei protagonisti, che sono tendenzialmente uomini, che sono tendenzialmente bianchi, che sono tendenzialmente quindi parte di quelle classi più quelli che erano più o meno i leader, o se non i leader, coloro che avevano più spazio, più margine di azione all'interno di all'interno del movimento. Allora le voci più marginali, a cui il 68 diede grandissimo spazio, e questa forse è la sua più grande forza, meriterebbero di essere, come dire, riascoltate, raccolte, discusse. Parlo degli immigrati in Francia, la questione ovviamente anche della razza, ma anche la questione omosessuale, la questione dei diritti delle donne, come a quella parte lì, quelle porzioni di movimento secondo me meriterebbero oggi una grandissima attenzione, e ci sono tutti gli strumenti adesso, appunto ritornando a quello che dicevo prima, gli scritti, gli archivi che si vengono aperti, la possibilità anche di entrare in contatto, di creare queste connessioni, dare più spazio a queste connessioni. Sì, anche queste perché connessioni. Tutto sommato poi ci sarebbe anche un discorso di, finché delle memorie vive ci possono anche essere dei testimoni, sarebbe anche bello andarla a recuperare. Prima di passare all'ultima questione, l'ultima chiacchiera con Giulia, ci sentiamo una canzone che cade decisamente a pennello. Siamo in una puntata dagli ascolti un po' variegati, che cercano di riraccontare delle memorie del 68, e canzone che cade a pennello perché ci ascoltiamo Self Defense di Medine, un rapper francese che riracconta la storia delle pantere, raccontando anche raccontandolo come una maniera con cui il popolo nero si è per l'appunto autodifeso. Buon ascolto e fra poco torniamo con Giulia. J'arrive du Havre en dérapage et c'est la pétarade. Encaisse mes textes d'arabe, c'est pas du gangsta rap. Advisory parental, car la paix n'est pas rentable. Plus rien n'est abordable, c'est la panthère arabienne. Made in Records, pas Made in Taiwan. Balance mes punchlines sur machine de guerre. Akai, venu du sud pour les tourments du studio. Avec un sourire kabyle et la barbe du leader Massimo. Voici 40 ans qu'on a la tourista sur un territoire instable qui spolie notre belle histoire. C'est pour les assister, Brother MC Star, qui falsifient leur visa sous Windows Vista. Moi j'ai l'art et la manière, l'âme et la bannière. Une cartouchière d'encre noire mise en bandoulière. J'ai enveloppé mon arme à feu dans mon courtière pour pas que le ministère de mon passé terne. On a les termes qui ressuscitent les morts, et si je tends l'autre joue, c'est pour mieux te mordre. Ah, caractère vénal ne supplie pas les. J'avale le code pénal comme arme supplétable. Et puis j'écris quelques sonnets bas comme à Soledad. Quand les chefs d'état poignardent sous les tables. Sous les dalles sont les descendants de Suleiman. Et sous les draps sont les leaders tombés sous les balles. Mais sous les bras, moi j'ai quelques albums sous le bras. C'est de la soul en rap pour bad boy et c'est les rats. Baisser les bras ne se fera que sous la pierre tombale. En ayant vu tous leurs soldats sous injection létale. C'est le meilleur cercueil, reste la mémoire des gens. Je cherche le martyr pour entrer dans la légende. Et je chante le cafard des fauves. Marginalisé, ma musique est le cafard du pauvre. C'est du rap, c'est France, self-défense. Conscient et bête de sens. On fait du son comme on pense, une plaie complète. Le sens de la loi t'oubliera. N'oublie pas ton histoire ou bien le monde oubliera. Je répète, c'est du rap, c'est France, self-défense. Conscient et bête de sens. On fait du son comme on pense, une plaie complète. Le sens de la loi t'oubliera. N'oublie pas ton histoire ou bien le monde t'oubliera. We declare. Nous déclarons. Our right. Notre droit. On this earth. Sur cette terre. To be a man. À être des hommes. To be given the rights. À jouir des droits. Of a human. Rieccoci di nuovo, stiamo chiacchierando con Giulia Sbanfi a proposito di 68, memoria del 68, memoria incrociata del 68. Stanno venendo fuori una serie di belle questioni, secondo me, che ci permettono anche di lanciare un filo con le nostre puntate precedenti sul 68, per cui vale sempre la pena di ricordarlo. Potete trovare i nostri podcast sul sito www.radiovallun.info. Bene, l'ultima domanda, Giulia, volevo cercare di chiederti un po' di entrare un po' più nel vivo anche di quello che è il tuo lavoro di ricercatrice, di storica per la appunto, cioè su, se ci puoi raccontare di qualche caso che stai seguendo all'interno di questo percorso sul 68 e le memorie incrociate del 68. Sì, beh, una cosa che mi è successa un po' per caso mentre cercavo, cercavo in archivio, è stato trovare in un archivio a Yale, a Balabainiki Library di Yale, questo poster delle Pantere Nere che promuovevano la visione all'interno della Corte di Giustizia di New York della battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo, un film che esce nel 1967 che diventa il riferimento di una generazione. Guardando e poi approfondendo questo discorso sulla ricezione di Pontecorvo e di questo film, che è un po' il film che ha fatto una rigenerazione anche nel movimento italiano, mi sono imbattuta in una serie di tre filetti di giornale in cui si parla di scontri tra fascisti e gruppi di movimento più a sinistra, non li definirei comunisti, era la situazione era un pochino più magmatica, il cinema Olimpia di Roma, ma poi insomma un film che era ampiamente dibattuto in quegli anni e che sorprendentemente acquisisce un'importanza fondamentale nella campagna mediatica che si costruisce attorno al processo delle 21 Pantere Nere di Harlem. Il movimento a New York nasce ovviamente da un punto di intersezione tra il movimento degli studenti di Columbia che occupano e che protestano contro l'espansione del campus nel quartiere di Harlem e oltre ai finanziamenti ovviamente che l'università dava alla guerra in Vietnam, quindi no, un coinvolgimento diretto dal punto di vista finanziario dell'università all'interno di questa guerra contro cui il movimento si batteva. E poi ovviamente ad Harlem c'erano le Pantere Nere, c'era la loro battaglia, c'era una battaglia che era nata in connessione anche con tutto quello che era avvenuto prima, le risposte alle guerre anche in Etiopia che l'Italia aveva fatto, quindi diciamo non nasce, il movimento delle Pantere Nere non nasce come conseguenza del 68 ma ci entra dentro. Ed è interessante notare come questo film che viaggiava moltissimo attraverso il movimento che anche a Columbia ad esempio gli studenti avevano fatto vedere il gruppo delle Pantere Nere lo utilizza per quale modo? Innanzitutto lo utilizza per dire quelli siamo noi, quella è anche la nostra battaglia, la battaglia degli algerini è una battaglia in cui ci riconosciamo, anche noi conviviamo una condizione di colonizzati, ci vogliamo liberare da questa oppressione. E poi c'è questa analogia anche spaziale molto interessante tra la struttura della Casbah della città di Algeri e il ghetto di Harlem, e quindi questa idea di portare la violenza all'interno delle strade, di utilizzare quello che viene definito la guerriglia urbana con come dire una associazione molto forte con quello che succedeva in Algeria. Perché Gillo Pontecorvo diventa importante? Gillo Pontecorvo diventa importante per l'uso che cinematograficamente fa dello spazio, un uso che nella sua esperienza deriva ovviamente anche dalla sua esperienza della resistenza, la conoscenza che della resistenza aveva avuto non soltanto lui ma anche Solinas che con lui aveva scritto la sceneggiatura. E poi per quindi questa questione meramente tecnica e geografica dell'organizzazione dello spazio, ma non solo quello, anche i contenuti, no? Quindi anche la politica di questo liberarsi dall'oppressore. E ovviamente più ampiamente questo riporta agli scritti di Fanon, di cui ovviamente le Pantere Nere erano fortemente attenti e si riconoscevano molto in questo. Quindi il film di Pontecorvo viene considerato nella memoria delle Pantere Nere qui ad Harlem uno strumento, come dire, una sorta di facilitatore nella lettura di alcune strategie urbane, ma anche di alcune letture importanti come quella di Fanon. E da New York il film poi viaggia e arriva ovviamente anche a Berkeley, arriva anche quindi in California e le autorità sono costrette a fermare la proiezione del film per evitare che ci fossero degli scontri. Ci sono delle interessantissime reportage scritti da alcuni giornalisti, tra cui in parte anche del New York Times, che raccontano questa la considerazione con la quale il film veniva accolto e l'importanza che questo film aveva per il movimento. Di questa memoria resta molto poco, è dispersa in alcuni trafiletti di giornale, in questi poster, in questi pamphlet che le Pantere Nere facevano circolare. Giulia, grazie mille anche per questo gustoso racconto, se mi posso permettere, perché sono secondo me questi, adesso vabbè, le mie sono le chiacchiere di un profano, come si dice, però secondo me sono anche quegli aspetti che rendono più gustosa la ricerca storica. La allontanano dall'idea sì, del topo di biblioteca. Esatto, e rendono qualche particolare un po' più curioso. Ecco, ho detto la mia banalità, però a me, per dire che a me è piaciuto molto. Bene, grazie mille. Grazie Giulia. Grazie a voi. Bene, ringraziamo ancora Giulia Sbaffi, una nostra amica compagna di Vallun che dagli Stati Uniti ci ha prestato la sua voce e le sue preziose informazioni. Quindi grazie ancora Giulia per essere stata in contatto con noi e per averci raccontato della tua ricerca. Per oggi direi che ci abbiamo alla conclusione, mio caro Alf. Esattamente, abbiamo esaurito la nostra mezz'ora di storia. Esatto, la mezz'ora di storia si va esaurendo e noi non possiamo che darvi appuntamento alla settimana prossima per entrare nell'ultimo mese di trasmissione, quindi abbiamo ancora un mese per stare in compagnia. Per oggi è tutto, buon proseguimento di giornata da Frey e Alf. Ciao!